tua fambiante con strazio atroce vedrò. A chi ho fiorito a dir quella non rotta al tuo valor appunto appunto tona vil anch'io farò Hey!